l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa dal nostro punto di vista. Radio 24 segue quotidianamente quella che è l'attualità europea. Noi al sabato cerchiamo di dare e offrire anche altre sfumature. Un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu/ita, per vedere questo portale che raccoglie tantissimi network europei ogni settimana, un dossier, ognuno nella propria lingua, per affrontare anche argomenti in modo comune ma portando contributi diversi. Anche oggi avremo l'appuntamento con Euronet. Potete seguirci in diretta e scriverci via sms al 349-238-6666, oppure ci trovate in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, con l'aggiornamento minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a trattare. Anche oggi un ampio menù e si parte dalla Grecia. Σε περίοδο προετοιμασίας για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται και οι περιπτερούχοι της Λάρισας που αντιδρούν στα πολύ μικρά ποσοστά κέρδους που τους δίνουν οι εταιρείες στην πώληση των καπνικών προϊόντων και των τηλεκαρτών. Εκπρόσωποι του κλάδου περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο, επισημένοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά, με κυριότερο το κέρδος των τσιγάρων που λόγω του ειδικού φόρου αλλά και των παιχνιδιών των εταιρείων. L'Europa al tempo della crisi se ne parla quotidianamente. Beh, la crisi porta anche degli stravolgimenti culturali, no? E si parla tanto di banche europee, si parla tanto di tasse, insomma di argomenti assolutamente importanti, poi ci sono anche delle ripercussioni nella quotidianità dei singoli paesi, e ripercussioni che vanno davvero a cambiare anche quelli che sono gli usi e i costumi locali. Abbiamo preso l'esempio della Grecia leggendo un articolo molto bello pubblicato sul portale balcanicaucaso.org da Gilda Ligunis su quello che sta portando la crisi greca, cioè alla chiusura dei Piriptera, che sono delle edicole tradizionali della Grecia. Ce n'erano 40.000, se ne contavano tra Creta e Salonicco, e tantissimi di questi stanno chiudendo. Con noi appunto c'è Gilda, che si trova credo in questo momento a Creta, e volevamo capire da lei quello che sta accadendo in Grecia. Ciao Gilda, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Ciao, ti disturbiamo durante le vacanze, lo so, però ci tocca. Allora, Gilda, intanto raccontaci cosa sono queste edicole, perché in italiano vengono tradotte come edicola, ma è un qualcosa di più. Sì, sono un'istituzione greca, è una cosa che almeno io, pur viaggiando molto, visto solo in Grecia. Allora, in apparenza sembrano dei chioschi che assomigliano in tutto per tutto alle nostre edicole, cioè sì, quelle che vendono i giornali, tanto per capirci, quindi con la serranda, fate di acciaio e vetro, tutti i giornali a vista, eccetera. In realtà assomigliano più a dei chioschi che, oltre ai giornali, vendono di tutto. Sono dei mini market in 2 metri quadri praticamente. Vendono accanto, ad esempio, al chiosco tu vedi dei frigoriferi congelati, bibite, vendono carte telefoniche, ma vendono anche souvenir, collanine etniche, barrette di cioccolata, accendini, portachiavi, anche profilattici, cioè di tutto. Quindi veramente di tutto, e sono una sorta di luogo sociale anche. Perché, a parte il fatto che sono la classica valvola di salvezza per chi, ad esempio, loro tengono aperto 18 ore su 24, sì, quindi tu ti trovi alle 2 di notte, hai assoluto bisogno di una sigaretta, facciamo un esempio, oppure c'è il bambino che strilla, che vuole assolutamente un gioco, ed è l'ora della siesta, qui è tutto chiuso in Grecia, no? Il frittore invece c'è, e allora il bambino può comprarsi il suo dolce, no? Sì. Ecco, quindi non solo, queste periptera sono edicola, ma non tutte vendono giornali, c'è anche questa, quasi tutte, ma non tutte. quelle che vendono i giornali, e la grossa differenza con l'Italia è che in Italia i giornali, le edicole sono religiosamente piegati, tu non è che puoi andare a sfogliarli, compro questo, compro quello. Assolutamente no. No, loro li appendono di lato con delle mollette da bucato, appendono diciamo in modo che si veda bene la prima pagina. E le prime pagine del giornale greci oltretutto sono caratterizzate da titoli cubitali, no? Sì. E quindi in occasione di grandi eventi che in questi giorni sono la norma, no? Eventi sulla crisi economica, eventi sociali, si formano regolarmente intorno a questi periptera dei capannelli di greci che commentano l'attualità, governo ladro, come faremo. Quindi insomma sono questa presenza rassicurante, tu sai che ci sono, che sono aperte 18 ore al giorno, sai che puoi trovare altre persone con cui fare delle chiacchiere, però alla fine tu hai fatto un po' i conti in tasca ai proprietari di queste periptere, e in effetti se su 3.000 a Salonicco 1.200 hanno abbassato la saracinesca, un motivo c'è, nel senso che la crisi sta colpendo pesantemente questi negozi. Certo, perché per una serie di ad esempio le due grandi, le maggiori diciamo vendite erano soprattutto le sigarette e anche i giornali. Sì. Allora, per un pacchetto di sigarette, una diciamo un periptero fino al quello che costa diciamo 3,5 euro al pubblico, diciamo fino al 2009 il guadagno netto che restava radicolante era di 20 centesimi, oggi in seguito a una tassa supplementare imposta da questi pacchetti anticrisi, dai 20 centesimi rimane in tasca radicolante solo 6 centesimi ed è il prodotto che vendono di più la sigaretta, no? Certo. E anche le carte prepagate, i giornali fino a 6 mesi fa, dalla vendita di un giornale che costa un euro, gli rimaneva in tasca il 7%, adesso gli rimane in tasca il 3%. E quindi insomma si fa presto, esatto. Questi sono due esempi, ma non solo, anche gli molti sono proprietari, mm-hmm. sono edicole a conduzione familiare, no? Quindi sulle 18 ore c'è il marito e la moglie che si danno il cambio, no? Oppure arriva il figlio, insomma. Però ecco, c'era un edicolante, mi faceva faceva vedere tutto il suo bilancio e diceva che la gente pensa che con un perittero si guadagna tanto, in realtà un perittero posizionato in una buona zona di passaggio, perché è quello importante, diciamo che fino al 2010 portava a casa circa 2.500 euro lordi. Gilda, ci stavi appunto facendo i conti, quindi avevi parlato con questo proprietario che si chiama Peripteros? Plakopoulos, Giannis Plakopoulos. Ok, ma invece il gestore della periptera come si chiama? Il gestore si chiama di cognome Plakopoulos. No, sì, ok. Peripteros. Sì, ecco, perfetto, benissimo. Ecco, mi diceva che prima gli rimanevano in tasca fino all'anno scorso 2.500 euro lordi. Bisogna togliere le spese, l'affitto, perché ad esempio in questo suo caso lui non era proprietario, ma era un affittuario del periptero. Le tasse comunali, le bollette dell'elettricità, perché gli dicevo appunto che accanto a questi periptera, a differenza che da noi in Italia, ci sono i frigoriferi dove si ripongono gelati, bibite. Poi il telefono, anche c'è la bolletta del telefono, perché il perittero mette a disposizione del pubblico sempre un telefono fisso, che è stata la salvezza per anni e anni, quando non c'era la telefonia mobile, dei turisti giovani, no? che chiamavano a casa in questo modo, no? E anche adesso, insomma, è un telefono fisso, non ci sono più anche in Grecia come in Italia. No, certo. Ecco, Gilda, scusa. Insomma, adesso gli rimangono in tasca, mentre fino all'anno scorso gli rimanevano in tasca 1.800 euro, adesso dopo tutti i tagli che ci sono stati, aumenti di bollette, eccetera, eccetera, gli rimangono in tasca 600. E lui dice, come faccio a campare? Certo. E non ne vale più la pena. Gilda, un'ultima domanda, ma questo vuol dire che cambierà anche un po' la geografia, cambierà un po' l'urbanistica? Africa? Nel senso, tu adesso vedi solo saracinesche abbassate o proprio verranno tolte queste edicole, quindi cambierà anche l'abitudine, nel senso che veramente il panorama metropolitano sarà diverso? Ma intanto adesso si parla della chiusura di un'edicola su 10 in tutta la Grecia, quindi per ora le edicole in maggioranza resistono, ci sono e lottano insieme a noi. Però è vero, io ad esempio sono arrivata a Creta da 2 giorni, e nella mia piccola via la edicola è chiusa, ed è l'edicola quando vado al mare, da dove compravo di solito i giornali, anche quella è chiusa. Voglio dire, sono cose che si toccano con mano, no? Esatto. Cioè, i tuoi punti di riferimento che se ne vanno. E quindi insomma è indicativo. Però un piccolo, diciamo, sospiro di sollievo, nel senso che mi dicevano che a Rodi ad esempio anche lì stanno chiudendo, cioè, però nei posti di turismo, di grosso turismo, afflusso turistico come Creta e come Rodi, c'è una fermata un po' di queste chiusure a catena. Perché? Perché l'unica cosa che va bene in Grecia in questo momento è il turismo. C'è un boom del turismo fenomenale, 10% in più nei primi 7 mesi dell'anno rispetto a tutto l'anno scorso. Beh, insomma, dai, almeno chiudiamo questa chiacchierata con un segnale positivo, e ci piace. Balcanicaucaso.org, il sito per leggere l'articolo di Gilda. Gilda, grazie davvero per essere stata qua con noi e buona vacanza. Grazie a voi. Ciao, alla prossima, ciao. Europost-it. Gioventù in azione su internet. Un coordinamento di servizi, siti, organi di informazione e uffici per i giovani. Sembra semplice, ma invece è una rete molto complessa e ampia ed è tutta raccolta sotto il nome di Eurodesk, la struttura del programma comunitario Gioventù in Azione, dedicata all'informazione e all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa. Eurodesk opera con il supporto della Commissione Europea e del Ministro della Gioventù e ha un sito utilissimo su cui reperire informazioni per viaggiare o studiare all'estero, ma anche per conoscere concorsi e bandi a livello europeo. Siete curiosi? Andate su eurodesk.it. International and the parliamentarians want to address the European arrest warrant. I believe that there is a general agreement that we need an effective extradition system. Quella che state ascoltando è Viviane Reding, commissario europea della giustizia, che sta parlando del mandato d'arresto europeo e della sua utilità. Perché? Perché proprio il mandato d'arresto europeo è stato scelto da Euronet questa settimana come argomento comune da analizzare. Per capire che cos'è questo mandato d'arresto europeo, come funziona e scoprire quella che è la sua utilità, se c'è un'utilità, e vedere anche dove e se è migliorabile, abbiamo l'onore di avere con noi il magistrato Francesco Lovoi, che è membro nazionale per l'Italia di Eurojust, agenzia dell'Unione Europea con sede a L'Aia. Buongiorno magistrato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Magistrato, intanto Eurojust che cos'è, per definire bene tutti i contorni? Eurojust è un'unità di coordinamento delle indagini sovranazionali, di facilitazione del coordinamento delle indagini sovranazionali e di assistenza alle procedure di cooperazione giudiziaria, quindi tutte quelle che coinvolgono più di un paese dell'Unione Europea e anche alcuni paesi al di fuori dell'Unione Europea. Ecco, quindi per voi il mandato d'arresto europeo è pane quotidiano? Pane quotidiano, okay. Precisamente, sì. è una delle diverse cose di cui ci occupiamo. Ecco, quindi forse nessuno meglio di lei può parlarci di questo mandato, che è dal 2004 che esiste. Che cos'è? Ce lo può spiegare veramente in poche semplici parole? Pochissime e semplici parole, evitando possibilmente gli aspetti tecnici che altrimenti sarebbero più complicati da spiegare. Premesso che in Italia il mandato d'arresto europeo è stato introdotto con una legge del 2005, e il mandato d'arresto europeo è nient'altro che una procedura di estradizione, la vecchia, classica, tipica procedura di estradizione che tuttora esiste al di fuori dell'Unione Europea, che però si svolge esclusivamente sul versante giudiziario, saltando i passaggi politici ed amministrativi che invece esistono all'interno delle procedure di estradizione classiche. Quindi un'autorità giudiziaria di un paese emette il mandato d'arresto europeo se il soggetto ricercato si trova in un altro paese, può essere tratto in arresto e la procedura di consegna è molto più rapida, molto più veloce, ci sono dei tempi molto ristretti per la decisione. Quindi è nato proprio per questo, per accelerare tutte È nato sia per accelerare le procedure di estradizione che in passato anche in ambito europeo richiedevano tempi spesso troppo lunghi, superiori all'anno, a volte 2 anni e così via. Adesso si chiude tutto al massimo in 90 giorni. E nasce anche perché a partire dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999 viene stabilito il principio che deve animare la cooperazione giudiziaria, che è quello del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quindi mutua fiducia, reciproca fiducia fra autorità giudiziarie dei Paesi membri dell'Unione Europea e pertanto immediata esecuzione delle decisioni prese dall'autorità giudiziaria competente di un altro paese. Ecco, ci sono però crimini che in alcune nazioni non sono contemplati. E questo vuol dire che si sta andando anche verso un'unione dei 27 paesi su questo discorso, cioè gli stessi crimini tutti uguali, tutti contemplati allo stesso modo nelle singole legislature, o ci sono differenze che vengono poi appiattite dal vostro lavoro? Ma guardi, su larga scala i reati più gravi, che sono quelli peraltro per cui è possibile l'emissione del mandato d'arresto europeo, sono previsti come tali, sono previsti come reati praticamente ormai da tutte le legislazioni dei paesi dell'Unione Europea. In ogni caso la decisione europea che istituì il mandato d'arresto europeo ha fatto una distinzione tra reati particolarmente gravi per i quali non può essere rifiutata la consegna anche se lo stato di esecuzione non prevede quella specifica ipotesi come reato, e altri reati pur gravi ma meno gravi dei primi, i quali però sono sottoposti comunque alla verifica del principio della cosiddetta doppia incriminabilità. Leggevo, sono stati oltre 70.000 mandati d'arresto europeo emessi tra il 2004 e il 2010, 12.000 sono stati eseguiti con successo, quindi a riprova che funziona, anche se qualcuno un po' ha criticato un abuso del sistema. Ci sono troppi mandati d'arresto europeo, secondo lei? Dunque, l'istituto funziona e funziona bene, i principali utenti di questo meccanismo, che sono le autorità giudiziarie dei vari paesi, ne sono soddisfatti. Quello relativo al cosiddetto abuso, di cui recentemente si è sentito parlare, è a mio avviso un falso problema, perché qui il punto non è l'emissione del mandato d'arresto europeo in quanto tale, il punto è l'emissione del mandato d'arresto a livello nazionale che precede l'emissione del mandato d'arresto europeo. Il mandato d'arresto si basa su una decisione in fase di indagini preliminari o successivamente alla condanna che prevede una misura cautelare, una misura coercitiva. E allora la questione andrebbe spostata più che sull'emissione del mandato d'arresto europeo, sulla natura dei reati per i quali è possibile l'emissione di un provvedimento restrittivo. Ma questo è un problema di procedure interne, non tanto di legislazione sostanziale penale, è un problema di procedure interne che ancora purtroppo nei paesi dell'Unione Europea sono diversi. Questo è uno dei passaggi che dovrebbe essere affrontato, uno dei temi che dovrebbe essere affrontato, quello dell'armonizzazione dei sistemi procedurali più che dell'armonizzazione dei sistemi penali sostanziali. Quindi ci sono margini di miglioramento, insomma, sui quali state lavorando? Ma guardi, i margini di miglioramento su cui ovviamente lavorano le istituzioni europee competenti, la Commissione e il Consiglio dell'Unione Europea, i margini di miglioramento ci sono sempre. Ci sono a livello europeo per alcune delle indicazioni che ho già fatto. Ci sono anche a livello nazionale, potrebbero essere ulteriormente semplificati alcuni passaggi burocratici, potrebbe essere previsto un maggiore uso anche della stessa unità di cooperazione Eurojust, che è interessata e coinvolta spesso nella facilitazione dell'esecuzione di questi mandati, ma ovviamente, ripeto, il sistema già adesso funziona abbastanza bene. E proprio recentissime vicende processuali italiane in particolare hanno visto un largo uso di questo strumento con effetti assolutamente positivi. Lei è magistrato dall'81, è stato sostituto procuratore della Repubblica a Palermo, una lunghissima carriera. così una domanda personale, quali sono le soddisfazioni nuove, le soddisfazioni che si trovano a lavorare in un'istituzione come quella in cui si trova ora? La soddisfazione è contemporaneamente una sfida, per la verità. La soddisfazione è quella di poter assistere, e peraltro da un osservatorio decisamente privilegiato e da un punto di lavoro assolutamente particolare, di poter assistere le autorità giudiziarie italiane innanzitutto, ma anche quelle degli altri paesi, in tutte le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale e nella facilitazione del coordinamento delle indagini sovranazionali, che oggi sono la gran parte delle indagini contro la criminalità organizzata. Tutto ciò, come è abbastanza evidente, non richiede particolari spiegazioni, costituisce una sfida, perché è proprio la difficoltà di questo tipo di indagini e di poteri tuttora in un certo senso limitati di intervento di Eurojust impongono volta per volta la ricerca di specifiche soluzioni, impongono la ricerca di mediazioni tra le autorità giudiziarie dei vari paesi, e quindi ecco, è un lavoro abbastanza impegnativo che dà soddisfazione, ma che richiede continuo impegno. Si arrabbia spesso per la troppa burocrazia? No, non particolarmente, anche perché ormai ci sono abbastanza abituato, ma quelli sono problemi che anche qui con un po' di esperienza si riescono a superare. Ringrazio davvero il magistrato Francesco Lovoi per essere grazie stato qua con lei. Noi e complimenti grazie per lei, il suo giornata. Prezioso lavoro. Buona giornata. Europost-it. Italians Online, un portale per aiutare gli italiani all'estero, ma anche per aiutare gli stranieri a conoscerli meglio. È quello fondato da 4 giovani emigrati italiani ed è pieno di informazioni utili per chi decide di trasferirsi all'estero. Il sito offre informazioni utili per cercare casa, lavoro, ma anche per decidere che cosa fare e dove andare alla sera, quali sono gli spettacoli da vedere in giro per il mondo, i festival, gli eventi. Ma non solo. Sul sito ci sono anche consigli utili per chi ama cucinare ed addirittura l'oroscopo o il forum. In più, gli utenti, italiani e stranieri, possono anche registrarsi e mettersi in contatto tra di loro per scambiarsi opinioni e consigli. Per provare di persona, italiansonline.net. Esta no es la juventud del Papa. Esta no es. Invece che state ascoltando sono un mix di cori e di canti dei Papa Boys, un mix di cari e di cori e di canti dell'Indignados, delle proteste che stanno accompagnando le giornate del Papa, le giornate mondiali della gioventù in Spagna. E per avere un po' il polso della situazione, per capire quello che sta accadendo in questi momenti e per raccontare anche quello che di fatto non è raccontato in queste ore, abbiamo invitato Monica, teniamo celato il cognome, ce l'ha chiesto e lo facciamo per rispetto, una giornalista freelance che proprio ora si trova sulle tracce del Papa. Ciao Monica, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno, tu sei una giornalista freelance in questi giorni. Sì. Stai seguendo sia i Papa Boys che l'Indignados, stai facendo un lavoro parallelo. Certo. Mm-hmm. Sì. Intanto raccontaci adesso, in questi minuti, proprio dove sei, cosa è accaduto e cosa sta accadendo. Adesso sono accanto al Parco del Retiro, dove è appena stato il Papa e ora è andato alla Cattedrale di Almudena alla Misa. Mm-hmm. Immagino che ci sia un clima di festa. Sì, in realtà sì, di tutti i cattolici che ci sono qua, sono tutti sì, facendo la festa. Mm-hmm. E si aspettano, mi sembra, 500.000 persone, però insomma le stime sono complicate. Oggi e domani, stasera c'è la grande veglia, domani la messa, sono un po' le giornate principali. Tu Monica hai visto anche un po' il dietro le quinte però di questa giornata, soprattutto seguendo le manifestazioni degli indignati. Cosa hai visto che non è stato raccontato? Quello che non è raccontato è che ci sono anche stanno raccontando che ci sono anche delle manifestazioni in contro della visita del Papa, ma non dicono perché, né la gente sa in realtà perché ci sono queste manifestazioni. Ecco, ma sono manifestazioni che vogliono essere solo delle provocazioni, nel senso viene usata la visita del Papa per avere una vetrina privilegiata? No, provocazione zero. C'è la gente che ci sono tipo quasi 200 associazioni spagnole di tutta Spagna che hanno firmato un convenio perché stanno in contra della visita del Papa qua in Spagna, perché ormai noi siamo adesso in crisi, non c'è lavoro, stanno recortando in educazione, in sanità, in tutto, e hanno speso 50 milioni di euro dai nostri soldi, da tutte le tasse nostre per la sua visita. Quindi c'è la gente che non è d'accordo con quello e si manifesta, ma non è provocazione. E ci sono spazi per manifestare, nel senso le manifestazioni vengono permesse? La prima c'era lo spazio e c'era tutto il percorso. Il problema è che alla fine della prima manifestazione, che è stata mercoledì o giovedì, non ricordo, poi dopo, alla fine della manifestazione, la polizia ha fatto delle aggressioni alla gente che si stava manifestando. Quindi hanno deciso il giorno dopo di tornare a manifestare in contro della violenza poliziale. Mm-hmm. È tornato a cadere lo stesso e quindi ieri l'hanno fatto un'altra volta. Monica, tu hai intervistato forse alcuni dei manifestanti e alcuni dei certo, Papa Boys, sì. Soprattutto i meno estremisti di entrambe le fazioni, chiamiamole così. Tra i Papa Boys c'è chi è comunque è contrario, comunque ammette questi costi, queste spese eccessive, e magari invece tra gli indignati c'è qualcuno che è più aperto comunque alla visita del Papa o non c'è dialogo? Il problema non è che non può venire il Papa può venire, ma lo deve pagare, cioè non è che lo deve pagare con i soldi di tutti gli spagnoli. Quelli che vogliono lui qua lo pagano, e quelli che non lo vogliono non lo dovrebbero pagare, capito? Uh-huh. Il problema è che l'hanno pagato tutti. E Monica, e tra i tanti stranieri europei, non solo, che sono presenti a Madrid in questi giorni, hai parlato con loro? Sono sensibili all'argomento o sono indifferenti? Di quelli che sono qua per il Papa? Sì. No, c'è la gente che è indifferente, sì, e poi ci sono anche quelli che provocano, anche quelli che si manifestano, tipo portando via tutti i cartelli della manifestazione e provocando anche. Cioè, ci sono le provocazioni per tutte e due. Ci sono anche i radicali che non vogliono il Papa qua, ma ci sono anche dei cattolici radicali che vogliono vedere la cara della faccia del Papa, e poi è su scritto non ti vogliamo qua, capito? Capito. Monica, tu seguirai anche oggi e domani la visita al sì, Papa? Sì, fino a domani. Qual è il tuo programma? Cioè seguirai la veglia, seguirai tutti i momenti istituzionali? Sì, continuerai, ok. Buon lavoro allora, perché insomma saranno due giorni impegnativi, bene, credo. Grazie. Ciao Monica, grazie davvero. Ciao. Grazie. Ciao. Monica, giornalista freelance spagnola, abbiamo voluto dare un po' un assaggio anche così di quello che sta accadendo durante questa visita, che è un appuntamento mondiale, non solo europeo, importantissimo, con come sempre risvolti anche culturali e anche politici. Adesso invece andiamo in Belgio e ci andiamo per cantare. My mood changed, my mood changed, my mood changed. Can't sit straight, my tongue grips, my lipstick, my ship sinks, but it's alright. My mood changed, my mood changed, my mood changed. Can't sit straight, my tongue grips, my lipsticks, my ship sinks. Il suo nome d'arte è Kissen Drive, in verità si chiama Elisabetta Spada, è una ragazza romana, ha 34 anni, ma in Belgio sta cercando di realizzare il proprio sogno, cioè sfondare come cantante. Ciao Elisabetta, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a te. Elisabetta, la tua è una storia bella, perché il tutto parte dal Parlamento Europeo, di fatto. Esatto, quale luogo più astruso per mettersi a fare la cantante, però la vita è piena di sorprese, quindi si è iniziato lì, in effetti. Ma tu come ci sei arrivata e perché sei arrivata al Parlamento Europeo? Io ho studiato psicologia del lavoro, e, ho fatto uno stage nelle risorse umane, e poi non so, 4-5 mesi dopo, quando già avevo deciso di restare in Belgio, attraverso un po' di contatti che mi ero fatta durante lo stage, ho avuto il posto in un progetto che stava nascendo, che era la televisione web del Parlamento Europeo, che era un progetto faro, con una cosa mai fatta, di una web TV con in 23 lingue, quindi con i sottotitoli, multilingue, insomma, è stato una sfida fare questo lavoro. E il Parlamento comunque, con cui, come dire, i ritmi di lavoro sono molto rispettati, sì, per cui ho avuto tempo e modo di dedicarmi anche sempre un pochino di più, anno dopo, riprendere la mia passione soppita, e poi voilà, poi a un certo punto è arrivata la scelta di dire se non lo faccio adesso sarà troppo tardi, quindi devo rinunciare a questo lavoro sicuro per vedere se posso fare la musicista professionista. Quindi questo era un sogno che già ti portavi da casa, già in Italia, era lì che covava. Diciamo che era l'espressione sogno nel cassetto, proprio da tipo da cioè, è efficace, perché in realtà avevo suonato di più, avevo cantato con dei gruppi quando avevo tra i 19 e i 23 anni, o 22, e poi ho smesso completamente per circa 10 anni alla fine. Uh-huh. E quindi, per cui non sono venuta in Belgio pensando a questa, era una cosa che era rimasta molto di lato nella mia personalità, stavo cercando altre cose, stavo cercando di essere indipendente, trovare un lavoro, trovare un posto che mi convenisse, e una volta che questi bisogni si sono realizzati, cioè ho trovato una città che mi piaceva, un lavoro che mi permetteva di essere indipendente, una cultura che molto rispettosa dell'individualità, della persona, anche dal lato culturale, poi piano piano il lato musicale è venuto su da sé, diciamo, cioè mi mancava e non me ne ero accorta che l'avevo messo così, l'avevo nascosto così in fondo a me stessa. Ecco, Elisabetta, e il salto com'è stato? Nel senso, hai deciso appunto di abbandonare il tuo lavoro al Parlamento Europeo e dedicarti completamente alla musica lì in Belgio. Qual è stato il link o l'occasione che ti ha permesso di farlo? Io avevo deciso prima, all'inizio dell'anno, diciamo a gennaio, di lasciare il lavoro l'anno successivo, quindi a dicembre, e per permettermi, dice, psicologicamente anche di mettere più carne al fuoco possibile dal punto di vista musicale, mi sono iscritta a un concorso di gruppi emergenti della Vallonia, insomma della parte francofona del Belgio. Sì. E ho iniziato a settembre, ho fatto la prima selezione, poi sono passata alle semifinali in novembre, poi in dicembre c'era la finale e ho vinto. Quindi è stato perfetto il passaggio tra la fine del mio anno al Parlamento, che avevo già deciso di dare le dimissioni, insomma di non fare rinnovare il mio contratto, e questa vincita di questo concorso proprio 2 settimane prima della fine del mio contratto, che mi ha permesso di essere molto rassicurata in un momento di grande ansia, perché quando tu lasci una cosa per un'altra, come dice il detto, sai quello che lasci, non sai quello che trovi, anche se sei convinto, per cui mi ha rassicurato un sacco questa vittoria. I just want to know if would like to know me more, and if this is not the case, verschwinde, I would like to see if you saw something in me that would make you want to stay with me a whole day. I want ancora Kiss and Drive, Elisabetta Spa, della sua carriera musicale in Belgio. E Elisabetta, perché piaci in Belgio? Elisabetta? Elisabetta ci ha salutato, intanto stiamo tentando di recuperarla. Ricordo ancora che myspace.com/kissanddrive è la sua pagina web, se volete conoscere, insomma è una storia, la storia di un'italiana che lavorava al Parlamento Europeo e che ha scelto di cambiare mestiere, di buttarsi nella musica, ha vinto una sorta di talent locale ed ora eccola qua, pronta a buttarsi. Questo è il suo pezzo che già gira nelle radio in Belgio, è ospite in vari programmi, insomma sta iniziando una carriera. Eccoti Elisabetta, ti abbiamo ritrovata? Rieccomi! Ci sei caduta. Sì. La domanda era perché il Belgio ti vuole, nel senso cosa piace di te lì in Belgio? Chissà, forse un po' di questa italianità. No, sono molto naturale sulla scena, cioè non mi prendo per niente troppo sul serio, parlo col pubblico, ho un modo di fare i concerti che è sempre molto adattato al pubblico che c'è, cioè non faccio una cosa che è sempre la stessa, non dico sempre le stesse cose. Mm-hmm. E secondo me questo crea una vicinanza con il pubblico che è piaciuto. Poi forse anche le canzoni che ho fatto non sono così, non sono né innovativissime, non sto dicendo che sono Björk, però non sono neanche la classica canzonetta folk, quella col chitarone, sempre la stessa roba. Okay, spero almeno. E canti solo in inglese? Per il momento sì, ho fatto una canzonetta in francese, poi io per me stesso, per il mio piacere, adoro Mina e adoro un sacco di cose della musica italiana, Elisa, tanta roba, solo che nei concerti faccio le mie canzoni che sono scritte in inglese. Oh, ok, ascolta, e ci sono differenze musicali, cioè com'è il pubblico lì? È diverso l'approccio? Tu dove suoni, dove fai i concerti, nei club? All'inizio ho iniziato nei bar, nei posticini, poi adesso sto facendo del gruppo spalla di alcuni gruppi in delle sale concerto direttamente. Club sì, ce ne sono, ma non è, infatti non è la stessa cosa come in Italia. Nei bar c'è molta più musica originale, sì. Mentre in Italia ho l'impressione che spesso suonino molti gruppi che fanno cover e pochi gruppi che fanno canzoni originali nei posti di grande movimento di gente. E invece in Belgio la cover non è per niente apprezzata, cioè sono una minoranza i gruppi che fanno solo cover. Mm-hmm. E poi grazie al concorso ci sono delle persone che sono interessate a quello che facevo e mi stanno aiutando, e adesso ho un agente e dei manager, per cui i concerti li organizzano anche loro. Ho suonato in dei piccoli festival fuori Bruxelles, insomma, non solo a Bruxelles. Beh, insomma, ce l'hai fatta, quello che era un sogno nel cassetto, almeno in Belgio l'hai realizzato, è un punto di partenza. Sì, okay. esatto, un punto di partenza come un altro, perché no, il paese piccolo si è velocemente fuori, nel senso fai 200 chilometri e sei già fuori dal confine del Belgio, in qualunque direzione tu vada. Esatto, e comunque sei nel cuore d'Europa, benché non ci sia un mm-hmm. governo da un anno e esatto, passa, però sì. Questa vabbè, ti darà ispirazione per futuri testi. Elisabetta, grazie davvero per averci raccontato la tua storia, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie a voi, crepi il lupo. Ciao. L'Aude qui vit dans l'attente de la fin du monde prévue en décembre 2012. C'est Internet qui le dit alors. Oui, oui. J'ai découvert en lisant un article dans Midi Libre quand même, puis un autre hier dans l'indépendant.com, que le village de Bugarach dans l'Aude, 190 habitants, 22 km au sud de Limoux, est au centre d'une incroyable légende. Bugarach devrait survivre à l'apocalypse mondiale programmée pour décembre 2012. Alors toutes les légendes qui entourent Bugarach ne sont pas nées sur Internet. Et chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa, puntata estiva in maniera assolutamente leggera, parlando della fine del mondo. Cadrà nel dicembre 2012, e pare che l'Europa, non proprio tutta l'Europa, un angolo d'Europa, ma un angolo piccolo, è giusto un paesino di 197 abitanti, situato a 426 metri d'altezza, nella parte sud-orientale della Francia, paese che si chiama Bugarach, se non erro, beh, questo paese si salverà. E abbiamo invitato una giornalista freelance, si chiama Marie Duhamel, ed è qua con noi per capire meglio questa leggenda nella leggenda. Ciao Marie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, come stai? Benissimo, grazie. A lei? Molto bene, ti sentiamo malissimo, però hai messo il viva voce, no? No. Aspetta che ti richiamiamo al volo, se puoi abbassare per favore, perché effetto intubato. Intanto anticipo tutti i titoli di coda. Ringrazio Peter Bescapè alla parte tecnica, Margherita Ina e Alessandro Baglia che con me hanno scritto la puntata. Vi ricordo l'altra Europa @radio24.it, la nostra mail se volete contattare la redazione, oppure ci trovate in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, per conoscere tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato oggi. Eccoci qua con Marie, che forse l'abbiamo ritrovata. Marie, ci sei? Eccomi. Ecco, molto meglio, grazie. Molto meglio. Allora, raccontaci questa storia, nel senso che è una storia di cui si è parlato, c'è questo piccolo paese che sta diventando meta di pellegrinaggio perché è ultima ancora di salvezza in questo 2012 che ci aspetta. Infatti, sempre più persone vanno lì, sono per la popolazione degli illuminati esoterici, allora ovviamente... vediamo un po' lì di tutto, no? Della gente che urla come dei neonati nelle cavità della montagna, perché Buragash è veramente sotto un picco, il picco di Buragash che va fino a 1230 metri, e quindi lì in questa zona si vede di tutto, processione, 100-200 persone in silenzio che camminano per raggiungere la cima della montagna, riti nudi, camping, un po' di tutto, no? Ma scusa, ci sono veramente persone che hanno cambiato residenza, sono andate a vivere lì? Sì, ce ne sono alcuni, ovviamente non è la maggiorità perché, come l'hai detto tu, ci sono soltanto lì 200 abitanti, un po' di meno. Però è vero che ci sono persone che sono arrivate lì anche 10 anni fa, ma è vero che visto che la data del 21-22, dipende dai siti, però dicembre si avvicina, allora ce ne sono sempre di più e conseguenza ovviamente il prezzo immobiliare sale in Grecia, no? Alcuni alloggi si vendono 3 volte il prezzo normale. Ecco, quindi insomma, tanto turismo, un turismo particolare e bizzarro anche perché che appunto oltre ai curiosi ci sono questi che ci credono, quindi estremisti dell'esoterico con processioni, urla e riti vari, però c'è movimento turistico e questa cosa piace credo al piccolo paese. Ma qual è la leggenda che ci sta sotto? Perché vanno tutti lì? Cosa avrebbe di magico questo luogo? Allora, praticamente ci sono 1000 leggende su questo luogo perché sono decine di siti internet che ne parlano e si legge di tutto. Allora, ci sono delle persone che raccontano aver visto UFI, dicono che la NASA avrebbe scoperto lì a 25 metri sotto la montagna una capsula tipo spaziale, una base spaziale extraterrestre per poter utilizzarla magari a dicembre prossimo. Se no, ci sono altri libri che parlano di una comunità con fraternità lì di immortali che vivono sotto la montagna e che magari potrebbero decidere chi mantenere in vita o no. Altri parlano, specialisti medium, specialisti di UFI, dicono che vivono lì degli Atlanti, sai, di quella popolazione, sì. Popolo sparito. E poi si parla di tutto, Santo Graal, il Cristo avrebbe soggiornato lì dopo aver sposato Maria Maddalena, ci sarebbe il tesoro dei Templari. Ed è vero, devo dire che c'è un'altra leggenda a poco distanza di Buragash, in un altro villaggio che si chiama Rennes-le-Château, sì, certo. E lì alla fine del XIX secolo c'era un abate, l'abate Saunière. E questo parrocchio praticamente è diventato stranamente ricchissimo e si dice che lui avrebbe trovato giustamente il tesoro dei Templari. Certo, insomma questa è un'antica leggenda, anche questa ben conosciuta. E, Marie, però ecco, il resto della Francia come vede questo paesino, questo villaggio? Con invidia? Con curiosità? Con interesse? Veramente credo che come in Italia quelli che temono questa storia sono gli abitanti del villaggio e quelli questi illuminati che ci credono. Il resto della Francia direi proprio che lo vede come un divertimento, no? Un pezzo da mettere alla fine di un radio o telegiornale. Quelli che sono infastiditi sono veramente gli abitanti della mini città, no? Eh certo, a meno che appunto non siano agenti immobiliari, che lì invece farebbero sicuramente affari. Insomma, è un tratto, abbiamo voluto raccontare questo tratto curioso della Francia, questo strano villaggio che sta facendo il giro del mondo, perché appunto forse si salverà da questa fantomatica fine del mondo. Marie, tu ci andrai, immagino? Non lo so, forse rimarrò qua a Roma perché mi piace quella città. Va bene, e noi saremo qui, rimarremo anche noi, non andremo nel villaggio, tranquilla. Grazie davvero, ciao Marie, grazie per essere stata qua con noi. Marie Dumele, giornalista freelance in Italia, che ha visitato per noi il paese di Bugarache. Finisce qua la puntata dell'Altra Europa, l'appuntamento è a sabato prossimo oppure domani pomeriggio, domenica alle 17 con Mine Vaganti. Ancora ciao da Federico Taddia.